due volte. Sembra impossibile come toccare la luna, come baciare due volte la stessa fortuna. Una corsa contro il tempo senza prendere mai fiato, e tu lo sai che due volte rifare la strada che hai fatto per tutta la vita ti porterebbe ad avere la stessa ferita, la stessa paura di una grande salita che diventa pianura. E poi ti accorgi del cielo e mentre ridi io vivo lo stesso respiro. Mi chiedo se è vero, davvero. E cadranno bombe, sai, sopra questa stanza. Ma tu non ti preoccupare mai, che il coraggio non manca. E anche quando il mondo finirà, non avrà importanza, perché ogni giorno vissuto con te non è mai abbastanza. A volte l'amore colpisce due volte la stessa ferita, la sua costruzione richiede fatica, la stessa fortuna di una grande salita che diventa pianura. E poi ti accorgi del cielo.